non c'è neanche il contatore accademico, visto? Ah no, infatti va benissimo. Io spero che non vi aspettiate che io parli per due ore di file, facciamo un po', insomma, ecco. Io volevo darvi una notizia prima di iniziare la riunione, una notizia bella, nel senso che stamattina ho parlato col sindaco per la tavola rotonda finale. E sapete che abbiamo il 23 con la consegna degli attestati di partecipazione, abbiamo anche la conclusione del dibattito dove presenteremo anche due ricerche, una tra l'altro la presenta anche Teresa, sui diritti, sarà il tema i diritti in sanità e i diritti alla casa, e poi presenteremo anche una conclusione, non so come riusciremo a farla, dei lavori di questo lungo percorso che abbiamo avuto. E parlavo col sindaco, lui mi ha detto che vorrebbe venire lui a sentire direttamente, a introdurre. Sapete che c'è stato un cambio degli assessori, quindi non c'è più Rizzo Nervo, farà l'assessore alla sanità, no? Quindi viene direttamente il sindaco, ho sentito anche la Gualmini stamattina, quindi questa tavola rotonda, noi daremo un'informazione a loro in sintesi delle varie lezioni, daremo il testo di ricerca, introdurranno loro, introdurrà Merola e Guelmini. Quindi ci fa piacere, anzi mi ha detto che ci parlerà anche dei progetti futuri, che è molto interessato a questa esperienza della nostra scuola. Questo è importante perché io ho sempre avuto un'idea che so, come anche Mauro Mori credo condivida, che sarà presente alla tavola rotonda finale, che in fondo l'istituzione del comune come tale è sempre quella più vicina al tema dei diritti. Poi che lo faccia bene o lo faccia male non è un problema, però non vedo dubbio che la regione è più un ente di secondo livello, no? Cioè il comune tradizionalmente, almeno come l'abbiamo intesa Bologna, è l'istituzione che più si impatta assieme ai quartieri, rappresentativa dei comuni, per quello che noi abbiamo cercato di coinvolgere molto sul tema dei diritti, non importa che poi abbia, ad esempio, prendiamo la sanità, ciao Francesca, ben arrivata, non importa che ad esempio abbia anche dei poteri gestionali, però era comunque, ad esempio il sindaco è la prima autorità sanitaria, cioè c'è un provvedimento da prendere, cioè il sindaco ha potere di intervenire in autorità sanitaria e quindi è l'istituzione che più direttamente deve operare a diretto contatto con i cittadini, quindi noi cercheremo di rafforzare questo ruolo col comune, non perché non ci interessa la regione, non ci... però adesso un ente nuovo che non conosciamo sarà la città metropolitana, sarà più regione o sarà più comune? Io spero che sia più comune, cioè nel senso che sia più legata direttamente, un domani possa eleggere anche direttamente il sindaco, perché no? In modo tale che sia molto vicino, noi abbiamo bisogno di istituzioni che siano vicine ai cittadini. Che anche le vicende politiche degli ultimi tempi, anche degli ultimissimi tempi, se uno le guarda bene, vede che i cittadini tendono a premiare più quelle persone che non a parole, ma nei fatti, cercano di avere un rapporto diretto. Cioè, cioè non basta avere rapporti tra poteri, bisogna avere rapporti con la gente, questo è il punto fondamentale, cioè devi ascoltare la gente, sei rappresentante. Sei il rappresentante, il presidente del condominio, se non ascolti quelli del condominio non funziona. E questo è un punto molto, molto importante. Vi voglio inoltre segnalare, prima di dare la parola ad Antonio, che abbiamo alcuni appuntamenti significativi. Oltre a questo, che ovviamente, io il 9 di novembre abbiamo Manconi. Luigi Manconi. Manconi non sta bene, ha avuto dei problemi seri di salute, è ugualmente, praticamente non ha problemi agli occhi, però io non sapevo se lui ce la faceva venire, ha scelto di venire, è una presenza di grande importanza. Se c'è stata una persona in Italia che si è battuto non da adesso ma da 40 anni sempre nell'interesse della gente e non del potere, del potente di turno, questo è Marcosi. Io sono andato con lui a Francoforte quando abbiamo presentato la carta di Francoforte. Contro, non perché eravamo favorevoli a diffondere delle droghe leggere, ma perché eravamo preoccupati della criminalizzazione dei ragazzi che usavano la marijuana, cioè che finivano per essere trattati al pari degli spacciatori, che non erano spacciatori, erano dei sofferenti, erano spesso anche dei ragazzi che lo usavano così ogni tanto, no? E lui fu promotore, io mi ricordo che ci trovavamo a cena con Combendì, il famoso Combe Rosso, assieme a Manconi, che lui era assessore alla sanità sociale del comune di Francoforte e che condivideva, da lì nacque una carta in difesa dei ragazzi che venivano arrestati perché trovati con una dose di marijuana in tasca, cose di questo genere. Diciamo, il problema è di spostare l'attenzione sullo spaccio, sulla criminalità vera e non sui ragazzi. Si è battuto sempre, anche in un'occasione recente, quando sapete di un fatto giudiziario in cui si è suicidato una farmacista qua a Bologna, per un eccesso di attenzione, non lo dico io, lo ha detto il Consiglio Superiore della Magistratura, un eccesso di comportamento da parte di un magistrato, Manconi contro tutti ha preso la difesa. Da solo, cioè, gli erano tutti contro. Una figura veramente umanamente prestigiosa, lui verrà, arriva e riparte, viene solo per questa cosa, ma mi piacerebbe molto che gli rendessimo omaggio, essendo noi presenti e dicendo. Poi abbiamo un'ultima delle testimonianze, come voi avete giustamente, ma io sono d'accordo, l'ho fatto per primo. Abbiamo posto l'accento sul fascicolo, allora faremo una testimonianza con Mazzini e Donini, e lui ha chiesto giustamente che sia presente anche l'assessore di riferimento, dedicato in particolare ai diritti digitali, al fascicolo del cittadino, che la faremo, mi sembra, il 16, vero? 16. Poi il 23 siamo al Baraccaro per la chiusura, ma lì so che appunto col sindaco ci andiamo. Dopodiché io ho già detto che tutti quelli che hanno, formiamo una specie di club, che poi è l'associazione Artigò, insomma, per pensare, progettare la scuola nel nuovo anno. Teresa raccoglie i nomi e dice sì, io ci sto, mi interesso, voglio far parte, e da dissenti diventerete invece più protagonisti di questo nuovo progetto, che ovviamente interesserà anche i docenti, sì, se vogliamo. Dette queste cose, do la parola a Antonio Maturo, professore di sociologia della nostra. Noi parleremo oggi della sanità e dei diritti del cittadino, un tema che sarà anche al centro della tavola rotonda finale. Tu, tra l'altro, hai avuto occasione proprio di conoscere a fondo il pensiero di Achille su queste cose, quindi direi che è proprio la persona che ci interessa avere in una lezione come questa. Prego, Antonio. Bene, grazie Mauro dell'introduzione, hai aumentato le aspettative, adesso sono un po' intimorito, ecco. Io devo dire che non ho conosciuto Achille Ardigò, io è stato mio docente, ecco, quindi ho ascoltato le sue lezioni, e poi vabbè, un piccolo ricordo personale che magari dopo racconto. In questa direi, diciamo, di, se non siete d'accordo, insomma, di fare una cosa un po' interattiva, ecco, e ho delle slide che ho mandato, non sono partite perché sono un po' pesanti, che però riceverete, insomma, e quindi seguirò un po' questa, diciamo, questa struttura, e la mia idea era un po' di raccontare ciò che mi ha, questo è il testo, diciamo, che potrei dire che mi ha fatto diventare un sociologo della salute, ecco, il testo di Ardigò che lessi nel 97, e volevo, diciamo, mostrare alcuni aspetti di grande attualità di questo testo e soffermarmi quindi sulle idee che aveva Achille Ardigò rispetto a i diritti del paziente, ma anche rispetto ad altri aspetti legati allo sviluppo, diciamo, della sanità nel terzo millennio, insomma, che lui aveva non profetizzato, aveva previsto. E poi molto molto brevemente do una definizione un po' del pensiero di Achille Rigaud, riprendendo un articolo che ho fatto qua sulla sociologia della salute. Questa è una rivista che si chiama Salute e Società. Tra l'altro Achille Rigaud era il presidente onorario di questa rivista, diretta per tanti anni dal professor Cipolla. Ora la dirigo io, e Mauro e il professor Cipolla hanno fatto questo bel volume nel 2009, che contiene tante testimonianze su Rigaud e gli aspetti, diciamo, legati a, potete dare un'occhiata, legati alla salute, insomma. E quindi così io comincerei raccontando quello che diciamo ho preparato nelle slide, e poi ovviamente possiamo, ecco, scusate, l'ultima parte riguarda alcuni studi così che faccio io, e che in maniera molto un po' arrogante ho intitolato Rigaud oggi, con il punto interrogativo, perché mi immagino che oggi Rigaud sarebbe appassionato di alcune cose digitali e che si possono trovare sulla rete. Quindi questa sarà l'ultima parte. Poi nelle slide troverete molte immagini che rendono molto più facile anche così la possibilità di attaccare dei concetti che esprimo con appunto delle immagini. Comincio subito, diciamo, dicendo che questo è un testo molto molto denso, proprio, è pieno di stimoli. Scusate, voi l'avete avuto alcuno di voi questo testo? No, possiamo vedere. Certo. L'avevamo messo, vero Francesca, a disposizione? Certo. Quindi sappiate che ce n'è nella biblioteca qua dell'associazione. E no, Teresa in qualche modo trovare il modo di darvelo, perché la famiglia, Francesca, la sorella di Achille, ce li ha messi a disposizione. Dico bene, Francesca? Sì, vero? Ecco, un testo molto molto denso, pieno di stimoli, e che a me mi fece così capire in maniera quasi scioccante la ricchezza anche della sociologia applicata alla salute. Fu per me anche di molto difficile leggerlo, perché è un testo che richiede molta dedizione. Ecco, competenza forse no, perché è alla fine spiegato in maniera molto molto chiaro, ecco, però richiede molta applicazione. Ecco, quindi io comincerei raccontando quello che mi piace di Rigaud, e ovviamente connettendolo poi con il tema di oggi. A me piace molto Rigaud critico, un Rigaud che è stato un uomo delle istituzioni, delle organizzazioni, anche dell'IRCCS, però è stato un pensatore anche molto critico verso la biomedicina. Parla di dominante sapere biomedico, parla di insufficienza dell'impianto fisicalista prevalente nella medicina, e scrive anche: cresce inoltre la paura, se non anche la convinzione empiricamente fondata, che l'attuale progresso economico e tecnologico scientifico produca esiti contraddittori anche per la salute. Quindi c'è non che Rigaud sia, e tantomeno, diciamo, se posso fare paragone, lo sia io, un luddista, cioè uno di quelli che durante la rivoluzione industriale in Inghilterra entravano a distruggere i macchinari. Ecco, Rigaud non è certo, anzi, però insomma la sua vena critica è forte nei confronti anche del sapere medico, perché imputa al sapere medico un certo cinismo, una certa, diciamo, propulsione verso quello che Rigaud chiama, sulla scorta di tanti altri autori, medicalizzazione, quindi cioè di rendere patologico certi aspetti che un tempo non erano patologici e oggi noi vediamo molti esempi di questa medicalizzazione, persino nel sociale, insomma, ecco, molto nella salute mentale. Ecco, io insegno in America e vado lì spesso, quindi farò degli esempi con gli Stati Uniti e quello che a me c'era tra l'altro un articolo oggi proprio di una recensione di un psichiatra che ha scritto, è uscito un libro qualche giorno fa sui disturbi dell'apprendimento e sulla sindrome del deficit di attenzione e iperattivismo. E non penso che le malattie mentali non esistano, però se dobbiamo credere che il 9% dei bambini abbia dei disturbi molecolari che richiedono dei trattamenti biochimici basati su anfetamine, ecco, è un po' troppo americano come idea, ecco. Anche sull'autismo si sta facendo una brutta strada. Certo. E Ardigò queste cose le aveva capite e aveva segnalato, diciamo, la tendenza alla medicalizzazione, all'ipermedicalizzazione, dice lui. Ed è un aspetto oggi, secondo me, vincente. Cioè, vincente non vuol dire buono, non vuol dire che io spero che questo accada, però sta accadendo, ecco. E sta accadendo perché la medicina è una forma di sapere molto potente, perché ci, diciamo, riesce a semplificare, a costruire il mondo in una forma molto convincente, perché il linguaggio, l'apparato, diciamo, anche di potere mediatico, di legittimazione strutturale che la medicina detiene, fa sì che un bambino irrequieto venga diagnosticato con una sindrome che è un insieme di sintomi messi insieme da un libro scritto dagli psichiatri americani e che quindi venga legittimamente, tra virgolette, curato con degli psicofarmaci. Dopodiché dovremmo discutere molto su cosa significhi essere malato di una alterazione biochimica e ancora semplicemente, tra virgolette, metto semplicemente, tra virgolette, essere irrequieto o disfunzionale in una classe. Ecco, ci sono forse l'ambiente nel quale quel bambino è cresciuto causa squilibri, causa irrequietezza, però ovviamente, era l'ultima cosa che volevo dire, però lo dico subito, ovviamente è molto più rassicurante una diagnosi medica con una terapia piuttosto che affrontare la complessità delle periferie che sono sporche, hanno gli immigrati, hanno i casermoni in cui tutto è complesso, complicato, fatiscente, interdipendente, mentre la medicina ci dà una immagine asettica, pulita, cognitivista, dove ogni cosa si tiene, ogni componente della salute viene raffigurata con un linguaggio apparentemente oggettivo e neutrale, insomma. Quindi Ardigò scrive anche: continuerà in maniera profetica la rincorsa tra le sempre più differenziate gerarchie di strutture ospedaliere per nuovi costosissimi status symbol, dai trapianti alle terapie geniche. Quindi, ancora, io non sono certamente contro i trapianti, contro le terapie geniche, però come potete vedere anche voi dai giornali, c'è una certa enfasi su alcuni aspetti della medicina come la genetica. Cioè, oggi sembra che la genetica sia la risposta ai nostri mali. Cioè, la genetica sembra per certi versi predire il futuro della vita di una persona, perché è scritto nei nostri geni. Il destino sembra quello cioè sembra quasi, non dico una nuova religione, però insomma sì. Un tempo c'era l'eugenetica. Ah no, certo, quella per fortuna, quella non c'è, sebbene, ecco, apparentemente c'è. Ecco, e non è colpa dei genetisti, che sono persone molto serie, i mass media e anche una certa struttura proprio complessiva della società ci spingono verso questo tipo di narrazione, lasciatemi usare un termine molto, molto alla moda, ecco, la narrazione genetica. E quindi Ardigò qui mi piace che cita molto un prete scomunicato, che è un personaggio singolare negli anni 70, che è Ivan Illich, e si vede che Ardigò lo ama molto, diciamo, questo personaggio. Nemesi medica, certo, sì, che ha cominciato appunto a scrivere contro la medicalizzazione. Ivan Illich aveva una singolare teoria, cioè che la medicina producesse malattia e anche che la scuola producesse ignoranza, ecco. E quindi perché produce malattia la medicina? Per svariati motivi. Allora, il primo motivo: produce malattie, chiamiamole inventate, e quindi però sempre malattie sono sempre delle, diciamo, degli aspetti che richiedono una cura, richiedono di comprare dei farmaci. Ecco, parliamo ancora della medicalizzazione, che agisce oggi sul rischio. La parola chiave è rischio. C'è un libro che si chiama The Last Well Person, l'ultima persona sana, perché noi, se entriamo in un ospedale e ci fanno un test, sicuramente qualcosa avremo, come racconta anche Dino Buzzati in un bel racconto che si chiama Sette Piani, credo. Sì. Ecco. Sì. Sette Piani, non mi ricordo se è la pubblicità della carta igienica o è il racconto di Buzzati, però, però ci sono Sette Piani anche nel racconto di Buzzati. Ecco. E quindi parla di questo signore che accompagna un familiare malato in ospedale, poi si perde, rimane nel piano dove la gente è sana, ma per un motivo o per l'altro viene trasferito giorno dopo giorno nei piani. I piani raffigurano la gravità della situazione, e quindi alla fine ci muore, muore, ed è ironico ma molto tragico anche, e anche molto profetico ancora, questa cosa che Dino Buzzati scrisse negli anni 60, ecco. Il fischio al naso si può citare. Com'è? Il fischio al naso. Com'è? Guardi, io so già che mi gioco molto, non mi inviterete più, però se si può spegnere il registratore vi dico cosa ho fatto dentro il bagno degli uomini della stazione di Bologna, che si può dire orinale in pubblico? Sì. Bene, lo dico. Che cosa c'è? Adesso non ci sono più, ma cosa c'era un paio d'anni fa sopra gli orinali, dentro il bagno degli uomini della stazione di Bologna? C'erano dei poster. Non era ancora Facebook, però funzionava. No, due anni fa però c'era il Facebook. Che cosa dicevano questi poster davanti all'orinale? Il tuo flusso è debole? Oppure ti alzi la notte per farla? Ed erano poster della società degli urologi che ti invitavano ad andare a fare una visitina, perché potresti soffrire di una. Poi non faceva troppo paura, perché sennò magari dopo non ci andavi più, però era c'era proprio un'addizione di lieve, finiva con lieve, però c'era un termine che finiva con lieve, che ti invitava ad andare. Poi ho fatto le foto, e lì ci vuole del coraggio, perché non è che puoi fare le foto nel bagno degli uomini molto facilmente, alla stazione, insomma, ma io ho documentato in maniera molto coraggiosa quello che stava accadendo, insomma. Quindi la medicalizzazione ti compare davanti nei posti più, più impensati, ecco. E quindi, appunto, lì, evidentemente c'era questa idea qua del non so, adesso non sono un esperto proprio di non voglio dire appunto anche. La pubblicità. Dicono, hai questo problema, può degenerare in quest'altro. Sì. Avevo il colesterolo alto, sono morto. Adesso sto meglio. Possiamo andare avanti. Dopo, no, è molto poi delicato perché non puoi essere contro la prevenzione, sì. Chiaramente, però come racconta anche Marco Bobbio in un suo libro recente, ma in quelli precedenti, la medicalizzazione del rischio ti porta nel dubbio sempre ad andare dal dottore, a consegnarti alla medicina, eccetera, eccetera. Ardigò, e passo quindi ora a un altro tema molto, diciamo, che Ardigò ha menzionato spesso, ed è stato anche qui profetico, perché si ingrossa la richiesta di maggiore attenzione nella cura al malato come persona. Maggiore rispetto della voce dei consumatori, il malato come persona, adesso oggi è una espressione molto scontata, no? Non è niente di strano, però oggi proliferano i corsi di narrative based medicine, cioè di medicina basata sulle narrazioni, di come i medici dovrebbero apprendere per comunicare con i pazienti, cioè capire il punto di vista dei pazienti. Ecco, questo Ardigò lo diceva, diceva anche prima del 97, lo diceva dagli anni 70, e per vari motivi, anche perché maggiore soddisfazione porta a un esito migliore delle cure. Non è soltanto una questione etica, diciamo, ma anche economica, cioè è dimostrato che soddisfazione per la relazione col proprio medico conduce a una maggiore compliance, maggiore aderenza alla cura, quindi minori ricadute, minore spese sanitarie. Poi vabbè, sapete quanto lui abbia, diciamo, ci sia dietro a quell'articolo 14 del decreto legislativo 502 che, diciamo, obbliga le strutture ospedaliere a fare delle ricerche nell'ambito dell'umanizzazione, personalizzazione, diritto all'informazione, privacy e comfort alberghiero e prevenzione negli ospedali, ecco. E poi un'altra cosa apparentemente distante, ma neanche tanto, è racconta Ardigò della recente attenzione alle cure del corpo, l'interesse per il benessere psicofisico. E qui Ardigò c'entra proprio una tendenza che oggi è davvero molto molto consistente, perché l'aspetto fisico, la cura per il corpo, il benessere, pensate a, non so, al fatto che l'India è l'India, però c'è il ministro dello yoga, ecco, e di come lo yoga si è diffuso oggi in tanti posti, di come oggi vi sia anche interesse, diciamo, per l'estetica, quindi per l'equilibrio mente-corpo, di quanti oggi vadano in palestra. E ancora, se mi permettete, faccio un esempio con gli Stati Uniti, di quanto sia il corpo bello sia indice della magrezza, intesa questa volta come bellezza, sia indice di moralità, di indice di capacità di tenersi a freno. E questa è l'eredità un po' luterana, protestante, che vede nella rinuncia, nell'ascetismo, un segno della predestinazione divina e anche un segno della capacità di gestione di una persona. Quindi se non riesci a gestire te stesso, non puoi gestire gli altri. Non è isteria ipoglicemica. Com'è? Isteria ipoglicemica. No, isteria ipoglicemica. Può essere. Può essere anche che io sono stata in America e ho visto tante di quelle famiglie grasse, così, padre, madre, figli, che è una cosa impressionante. E poi siamo, mangiamo un'incontinuazione per la strada. No, no, va bene, va bene. No, no, ha ragione. Però ha ragione, ha perfettamente ragione. L'America è un paese dove ci sono più obesi, più sovrappeso, dove aumenta radicalmente questo, il peso dei pesanti. Ma il fatto è che l'upper class è fatta di magri, cioè quelli, diciamo, è lì dove insegno io, a Brown, vicino a Boston, c'è una collinetta. Sulla collinetta studenti, professori, che sono tutti magri, a ogni ora del giorno tu esci, c'è qualcuno che corre, la palestra è aperta 24 ore su 24, la piscina pure, i ristoranti sono per vegetariani, e vai alle 7 in un bar, non c'è, per un aperitivo non c'è nessuno, quindi se sei te davanti a una birra pensi di essere malato, insomma, no? Perché sei l'unico in tutta la cittadina, no? E vabbè, sto un po' esagerando, però quando scendi 800 metri e vai nella downtown, vedi persone senza gambe, vedi gente che fuma, perché là sopra non fuma. L'unica persona che ho visto fumare alla Brown era, due persone ho visto, uno alle 8 di mattina, e gli ho detto, fuori dalla biblioteca, gli ho detto, ma tu non sei americano perché fumi a quest'ora? E lui fa, no, I'm American, but I spent one year in England. Quindi, no, sono americano, ma sono appena tornato dall'Inghilterra e quindi fumo. L'altra era la figlia di Bruce Willis e Demi Moore, che fumava, perché faceva Brown ed era lì alle 8 di mattina che fumava. Poi l'hanno arrestata 2 settimane dopo, ma non perché fumava, ma perché aveva comprato una birra usando la carta d'identità di un'altra, perché non aveva 21 anni. È andata a bersela poi alla stazione di Boston, ma io dico che sei la figlia di Bruce Willis, di Demi Moore, ma comprati un Brunello di Montalcino, vai in taxi a casa tua a Greenwich Village e bevitelo lì invece che comprarti una birra alla stazione di Boston, no? Vabbè, mi sono lasciato un po' andare. Quindi l'attenzione per il corpo, per la cura, per poi... Ardigò scrive molto proprio sul corpo e sulla corporeità, e ancora sarebbe interessante chiedergli delle cose anche sulla ossessione adesso per il corpo con la negazione della corporeità. Sempre lì in America a me faceva specie che in molti anni fa, quando finivo di lavorare, ci si vedeva in un pub la sera e arrivavano questi americani, queste americane, glabri, depilati dappertutto, con questi profumi, questo alone di colluttorio, e l'aria condizionata era rigidissima, e quindi sembrava belli, marmorei, che abbiamo fatto tanto sport. Il corpo prima, il corpo importantissimo, ma non dovevano esserci peli né gocce di sudore o cose del genere, perché la corporeità è qualcosa di sporco. E quindi, diciamo, il benessere psicofisico si vede anche a New York. Un tempo c'erano tanti tipi di negozi, oggi ce n'è uno che è nato 7 anni fa e ce ne sono un centinaio, si chiamano Duane Reader, e ti vendono tutto quello che c'è per il benessere, il corpo, è una catena che va moltissimo. Ma andiamo, diciamo, lasciamo il benessere e torniamo un po' anche ai problemi delle persone. Ardigò scrive molto anche del ruolo dei pazienti, del ruolo dell'auto mutuo aiuto, del fatto della necessità di aprirsi al mondo della vita, aprirsi al mondo dei pazienti, anche per un motivo molto semplice, epidemiologico, il motivo per cui oggi le malattie croniche necessitano di cure che non sono quelle che necessitavano le malattie acute. Oggi è come se diciamo, facciamo così, questo il mio braccio è il tempo, no? Nascita di Cristo, ok? La mia ascella qua è la nascita di Ippocrate, facciamo quarto secolo avanti Cristo, convenzionalmente l'inizio della medicina. Allora, la medicina, per tutto questo arco di tempo che arriva alla mia seconda falange, ha avuto un nemico, cioè le malattie acute. Quindi la medicina ha costruito tutto il suo armamentario terapeutico contro un nemico, le malattie acute. Cosa accade però? Che dopo 2350 anni, quasi improvvisamente, nell'ultima mia falange, il nemico cambia e diventano le malattie croniche. Però, chiamiamolo, il DNA della medicina si è forgiato contro un altro nemico, contro le malattie acute. Quindi la mentalità della medicina, anche semplicemente l'organizzazione delle scuole e delle facoltà di medicina, sono fatte per combattere la medicina, le malattie acute. Quindi non credo, la medicina è riuscita a riorganizzarsi negli ultimi 70-80 anni per rispondere a queste nuove esigenze dei pazienti, o ancora qualcosa, insomma, c'è da migliorare? Devo dire qualcosa? Sì. Va bene. L'ho capito telepaticamente. Telepaticamente. Ma di nuovo con gli occhiali torna. Va bene. Parli allora, ci dica, no, cosa vuol dire? Nella vita del mio lavoro sono stata funzionaria dell'Università di Bologna e all'inizio ho diretto le segreterie di medicina quando c'erano 12.000 studenti. Ho avuto rapporti con tutti i direttori delle cliniche. Beh, penso che ci sia stata una modifica enorme però nella baronia dei direttori e anche dei sottodirettori delle cliniche, perché allora erano qualcosa che tutti gli altri alla mattina aspettavano, tutti i medici in camera, che arrivasse il primario a dirigere tutto, e dove, quando visitavano gli ammalati c'erano dei codazzi enormi. Quindi l'ammalato in che funzione si trovava verso cose. Sono stata anch'io lì a dire, dico, erano persone, il grosso delle cose di medicina le sapeva pochissimo, anche se era uno che aveva anche laureato, ma laureato in lettere, laureato in matematica. E poi c'erano tantissime più persone che non avevano studiato niente. Lì ci ritorno allora. Ci ritorno tra poco. Ecco, quindi diciamo, l'idea, diciamo, dei pazienti e della partecipazione non nasce solo da un'esigenza etica, ma anche da un'esigenza pratica. I pazienti e le famiglie sanno, cioè non è che sanno, c'è necessità che conoscano le proprie patologie e c'è la necessità che senza, diciamo, senza andare troppo in crisi, che ci sia una certa forma di aiuto anche in casa, anche se è un problema che sia tutto in casa, chiaramente. E poi ci sono tutte le associazioni che possono fare qualcosa, e il terzo settore, quella fascia intermedia, benché il terzo settore sia un animale eterogeneo, insomma. Ecco, un altro aspetto che vorrei segnalare nel volume di Artigò è questa distinzione che lui fa tra disease e disability. E adesso, la malattia va compresa anche con riferimento a specifici fattori insiti nella vita di relazione e nelle motivazioni, nel senso della vita della persona, specie se anziani. A stati di disease fisiologici equivalenti si possono dare differenze notevoli quanto a gradi di disabilità. Allora, cerco di spiegare. Disease nelle scienze sociali è l'idea di malattia per la medicina. Quindi la medicina ha un'idea della malattia come alterazione fisiologica. La disability invece è il modo con cui la persona vive la propria malattia in riferimento anche alle attività relazionali. Ecco, quindi pensate, quindi come l'uomo, la persona interpreta la propria malattia e come la persona, diciamo, e come incide nelle sue attività sociali. Voi pensate a Tiziano Terzani e Oriana Fallaci, entrambi avevano lo stesso disease, il cancro, ma uno lo chiamava l'amico cancro perché diceva che l'aveva aiutato a conoscere meglio se stesso, e l'altra lo chiamava l'alieno, ecco, perché ovviamente odiava il suo cancro. Ecco, quindi Ardigò dice ci sono tante malattie oggettivamente, ma poi il modo con cui queste malattie incidono è differente, ed è differente rispetto a come la persona è fatta, diciamo, quanto ha studiato, il suo reddito, chi ha intorno, la famiglia, le associazioni, il tipo di sicurezza personale che egli percepisce, e anche l'ambiente che ha, sociale, perché essere su una sedia a rotelle a Potenza è diverso che essere su una sedia a rotelle a Uppsala, a nord di Stoccolma. Anzi, Uppsala c'è anche una collinetta, ma se uno va a Stoccolma le collinette non ci sono, e quindi è ancora più semplice girare, o qualche altra piccola cittadina, insomma, grande come Potenza in Danimarca. Ecco, perché la società ti rende più o meno disabile, ecco, detta in maniera molto, molto netta. Un tema su cui Ardigò scrive, un tema caro al professor Moruzzi, è la cibernetica. La nuova disciplina cibernetica ha aperto la via alle scienze computazionali e a molte nuove tecnologie ora permeanti non solo il sapere medico, specie tecnico-strumentale, ma lo stesso approccio sistemico. Quindi oggi sappiamo quanto queste parole sono state azzeccate, sembra un po' dire una cosa scorretta, insomma, quanto sono state ancora una previsione che si è realizzata, insomma, l'importanza, diciamo, delle scienze cognitive, delle teorie sistemiche applicate alla cibernetica e a questo genere di discipline. Mi sono segnato il rapporto medico-paziente e empatia. È un tema, credo, che si conosce già. Eppure bisogna continuare a proporlo, benché tutti lo conoscano, pochi lo praticano davvero. Quindi l'empatia è l'idea di vedere il mondo con gli occhi dell'altro, e forse in una società sempre più complessa, fatta anche di persone che vengono da differenti culture, questa disposizione è oggi imperativa. Tempo fa con il professor Cipolla noi facemmo una ricerca sul malati oncologici e su vari aspetti, per lo più sulla percezione di dolore. Però noi in questo comunque grande questionario chiedevamo anche quale fosse il loro stato di avanzamento della malattia o di remissione, come stavano. E avevamo anche i dati della cartella clinica. Bene o male. Circa il 15% dei malati non azzeccava la propria condizione, la propria fase di malattia. C'erano quindi, anzi più, quasi un malato su 5, o c'erano coloro che gli ottimisti irrealisti, dicevano di star meglio rispetto a quanto oggettivamente stessero, ma c'erano anche le persone che dicevano di star peggio di quanto stavano. Ecco, quindi quello che noi, e almeno io intuitivamente, ho detto, vedi, i medici non sanno comunicare. Dopo, invece, riflettendoci un po' di più, parlando con altri, semplicemente questa idea, a volte anche americana, di dire tutto al paziente, potrebbe essere un po', non dico ridiscussa, ma appunto ricollocata. A volte i pazienti non vogliono sapere, quindi non preferiscono, diciamo, non conoscere la propria patologia, preferiscono, e questo apre un dibattito abbastanza etico, quanto il medico deve dire. E Ardigò scrive molto, rimanda molto alla bioetica in questo suo testo. Ecco. Ardigò parla poi di altri autori, fa proprio una cosa molto molto approfondita, ricostruisce quasi la storia della sociologia confrontandosi con tanti autori differenti, e sarebbe difficile per me riprenderli tutti, impossibile, quindi ne ho selezionati due che mi sono molto simpatici. Uno si chiama Goffman, l'altro si chiama Garfinkel, e loro, diciamo, studiano i modi con cui le persone interagiscono quando si trovano a faccia a faccia, faccia a faccia. E Goffman ha parlato di frame, di cornici cognitive, di contesti, quindi di come le persone definiscono le situazioni e come quella definizione della situazione diventi sacra, perché i partecipanti, quando sono in una situazione di interazione, tentano di mantenere quella situazione comprensibile l'una all'altra, cercano di mantenere l'ordine dell'interazione. Se io mi nascondessi sotto il tavolo, sarebbe bizzarro, no? Ecco, una mossa un po' stravagante. Ecco, voi avete mantenuto compostezza pensando forse che facesse parte della didattica questo esperimento, no? E Goffman fa un sacco di questi esperimenti, fa vedere come le persone in interazione mantengono un po' la definizione della situazione. Sì, sì, adesso ci arrivo. Ecco. Ecco, infatti, dopodiché lui studia come interagiscono, e questo è l'aspetto che ad Artigò interessa di più, le persone nelle istituzioni totali, quindi nei manicomi, nelle caserme, soprattutto nei manicomi, e Basaglia riprende molto da Goffman, infatti, nella sua proposta poi. Quindi, e mostra Goffman come nelle istituzioni totali queste regole dell'interazione non vengano rispettate, perché gli infermieri, i medici a quei tempi parlavano dei malati psichici come se non ci fossero, li chiamavano con un numero e li, diciamo, li deprivavano della loro identità, li denudavano, ecco, e quindi Ardigò qui utilizza molto Goffman nel riconnettere Goffman a Basaglia, ecco. Cita anche Garfinkel per un altro motivo molto un po' differente, e Garfinkel è un altro simpatico che racconta come, diciamo, detta in maniera molto veloce, vi siano molti modi di interpretare certe situazioni, al di là delle regole formali, ecco. E questo aspetto è molto interessante, e Ardigò lo menziona quando si analizza quello che viene detto la cultura organizzativa, no? Voi, Mauro lo saprà bene, avete un'organizzazione, quell'organizzazione può essere definita con il suo organigramma, ci sono dei ruoli, delle persone, delle funzioni, ma cosa accade? Che quella organizzazione sviluppa anche dei modi di fare che non sono formalizzati, dei valori, degli assunti di base così incistati che non si riesce neppure a spiegarli, delle attitudini, delle usanze, dei costumi, no? E quindi una struttura informale che è tanto importante quanto quella formale, ecco. All'università ce ne sono tanti di queste situazioni, come sa chi è stata a medicina, no? Ed ecco, però, appunto, Ardigò attraverso Garfinkel fa notare come nelle organizzazioni sanitarie anche ci siano questi aspetti informali molto importanti, ad esempio gli infermieri, no? Che a volte suppliscono relazionalmente a quello che non fanno i medici in alcuni casi, non è che voglio, o altri casi molto informali di negoziazione. Cioè io mi hanno raccontato che un tempo c'era una persona, tra l'altro mia cara, che mi era cara, ricoverata in medicina generale, che aveva un forte dolore, era un attacco di appendicite, ma non si riusciva a vedere l'appendicite, che a volte è invisibile. Il chirurgo, quando è venuto a trovarla, ha detto: lei enfatizzi un po' questo dolore, così la mandano su in chirurgia coi medici, no? Questa era una cosa ovviamente molto informale, ma accaduta, insomma. E poi, ecco, una parte molto importante, del pensiero di Ardigon in generale nell'ambito della salute è lo scontro, incontro, diciamo, passione, ma anche forte critica con Luhmann. Niklas Luhmann era questo pensatore tedesco che dice cose un po' apparentemente un po' ciniche, ecco. Tutti noi, quando si parla di società o di sistema sociale, le cose non sono le stesse, però insomma oggi è un po' una chiacchierata. Il sistema sociale per Luhmann non è fatto di persone, le persone sono fuori, è fatto da comunicazioni. E comunque la cosa che Luhmann adesso menziona di Luhmann è questa cosa che riguarda lo stato sociale. Dice Ardigò, riprendendo Luhmann, ma non è d'accordo con Luhmann, dice: nessun sistema sociale può disporre di un centro decisionale globale per risolvere i problemi. Di conseguenza, lo Stato, anche lo Stato sociale, non deve seguitare a cercare di fronteggiare tutte le richieste che vengono dalle persone. Questo lo dice Luhmann, ripreso da Ardigò, e Ardigò ovviamente non è d'accordo con Luhmann. O meglio, dice Ardigò, lo Stato deve cercare di fronteggiare tutte le richieste, ma forse non è l'entità adatta a volte per fronteggiare queste richieste, perché lo Stato, come dice un economista degli anni 50, è troppo grande per i piccoli problemi, è troppo piccolo oggi per i grandi problemi globali, ecco. E quindi di qui la posizione che Ardigò ritaglia per il terzo settore, per la famiglia, per il non profit, per il volontariato. Quindi rispondere in un'ottica di sussidiarietà, che è un concetto teologico che deriva proprio dall'idea che l'ente più prossima debba essere quello che risponde ai bisogni, perché è vicino ai bisogni, ecco. Quindi è vero, lo Stato non può risolvere tutti i problemi dei cittadini, però ecco, proprio cercare di scansarli, come dice Luhmann, è un po' cinico, ecco. Più che scansarli, magari deve cercare di, in un'ottica di, come si dice, come Ardigò già aveva preconizzato e si dice oggi, di governance, cioè di coinvolgimento, gestione non gerarchica ma orizzontale, coordinata con tanti attori, si vada a fronteggiare dei bisogni complessi attraverso interventi che sono complessi quando si tratta di tanti attori. E quindi diciamo, concludo questa prima parte, poi le seconde sono molto molto più brevi, quindi non preoccupatevi. Se poi pensate, poi vi annoiate, voi cominciate ad applaudirmi, così smetto. Quindi se vi annoiate, voi applaudite e io sono contento. Ecco. Quindi sintetizzo con delle parole che ho trovato nella lunga e densa introduzione di Mauro nel numero di Salute e Società. Quello torna indietro, perché qua sono spariti già due libri che avevo qui. Quindi, ok, vabbè, uno, il 50% è tornato dei libri. E Mauro scrive, il suo di Ardigò è stato un tentativo difficile di ricostruire e ricollocare l'ambiente vitale delle persone in una diversa ottica sistemica, appunto comunicante e perfino empatica. Quindi l'idea, appunto, che tra persone e sistema di salute, chiamiamolo in termini un po' più ampi, vi sia comunicazione, vi sia interpenetrazione, avrebbe detto Luhmann, vi sia anche approccio empatico. Ed è forse la direttrice lungo cui leggere tutti gli sforzi di Ardigò, uno sforzo costante di ripristinare questa relazione, questa comunicazione. Una parte che adesso dico dura due slide, ed è molto semplice, è come io ho definito il rapporto tra Ardigò e la sociologia della salute. Io l'ho definito un doppio eclettismo vincolato. Sembra una definizione molto aulica, ma in realtà è molto banale, molto semplice, perché lui aveva, come si nota qua, un approccio multidisciplinare alla salute, benché strettamente sociologico. Allora, io parlo di doppio eclettismo perché semplicemente Ardigò, secondo me, aveva due tipi di ecletticità. La prima derivava dal suo non essere solo un professore. Era un appassionato ricercatore empirico, ma era ed è stato anche un amministratore, no? Un amministratore, oltre che di strutture sanitarie, anche di consigliere comunale. Sì, e anche un suggeritore istituzionale, sì, quando è stato presidente della prima sezione del Consiglio Superiore di Sanità. Ecco, quindi è stato un animatore politico. Ecco, io forse non lo chiamerei un politico neppure forse un uomo politico, però un animatore politico mi sembra nel suo caso più non so, più fedele, ecco, però io non l'ho conosciuto e quindi non posso dire di saperlo. Quindi era una persona eclettica perché aveva ricoperto tanti ruoli, no? Quindi professore, ricercatore, amministratore, suggeritore istituzionale, animatore politico. Il suo secondo eclettismo derivava dal fatto che lui ha fondato, diciamo, la sociologia in Italia, almeno la sociologia moderna, diciamo, e che ha scritto almeno 5-6 manuali di discipline sociologiche differenti. Ha scritto di sociologia del territorio, di sociologia dell'educazione, dei manuali, di sociologia della famiglia, di sociologia della comunicazione, alla fine, quando parla della rete, e di sociologia della salute, ovviamente, e quindi era eclettico perché padroneggiava molte sociologie e, vabbè, io dal mio punto di vista le vedo ritornare dentro questa sua sociologia della salute, perché questa sua sociologia della salute emerge come fosse soffiata da tanti geyser di diverse discipline che si uniscono in maniera sotterranea e poi eruttano tutti insieme. Ed era uno che quindi, appunto, rilegava le cose insieme, no? C'era l'origine di religione, proprio quella della parola, di mettere insieme, no? E quindi lui rilegava queste cose, secondo me, questo approccio. Ho parlato anche di un eclettismo, di un vincolo che lui aveva, ed era un vincolo metodologico, che è quello del rigore sociologico. Cioè lui padroneggiava tante discipline anche non sociologiche, perché conosceva di filosofia, di teologia, di economia e di politiche, di scienza dell'amministrazione, però il suo libro Società e Salute, come tutti i suoi libri di sociologia, prendono la sociologia, diciamo, accettano le regole del gioco della sociologia. Ecco, quindi sono all'interno del discorso sociologico. Ecco. Ardigò oggi, secondo me oggi Ardigò si divertirebbe moltissimo a guardare tutto ciò che c'è sulla rete, a guardare tutte le possibilità, tutte le bizzarrie, certo, si sarebbe anche molto preoccupato, immagino, di tante cose, però cercavo di sottolineare magari un aspetto anche, se si può, anche un po' frivolo, ecco, che magari io non conoscendolo non posso dire, però credo che lui fosse appassionato, ecco, di queste nuove tecnologie e le trovasse anche molto appassionanti. È chiaro che sarebbe anche molto preoccupato, ecco. E ritornerò su Ardigò tra poco. Prima però vorrei mostrare, poi nelle slide si vede molto bene, alcune tendenze che secondo me oggi stanno, che riguardano un po' i miei di studi e che credo abbiano risentito ovviamente sia in maniera inconscia ma anche a livello consapevole di alcuni aspetti della teorizzazione di Ardigò. Quindi magari racconterò in 10 minuti un po' quello che un po' sto facendo e credo che i nessi con Ardigò non manchino, ecco. Io sto guardando come funzionano le app della salute mentale, di tanti tipi di salute. Noi possiamo raccogliere un sacco di dati, no? Con queste macchinette, no? E la cosa secondo me interessante è che i nostri dati possono venire raffigurati in modo molto preciso e molto, non so come dire, altisonante, con dei grafici, degli istogrammi, delle statistiche, proprio come fossimo un'azienda. Cioè, se noi 10 anni fa ci avessero fatto vedere su delle slide i dati, alcuni tipi di dati, statistiche, istogrammi, funzioni, eccetera, ci avessero chiesto che dati sono secondo te, noi avremmo detto, che ne so, i dati che provengono dall'ufficio ricerca e sviluppo di una multinazionale. In realtà potrebbero essere benissimo i dati che riguardano le nostre passeggiate. Le nostre passeggiate vengono raffigurate in maniera aziendalistica da questo tipo di marchingegno, no? Costruiamo un sacco di numeri attraverso il self-tracking, attraverso questa, diciamo, raccolta di dati automatica. I numeri ci invadono. E faccio notare, poi con le slide diventa più semplice, che nel manuale diagnostico statistico delle malattie mentali, per ottenere una diagnosi, bisogna contare i sintomi e contare le settimane che quei sintomi durano. Un approccio quantitativo. Quindi i numeri oggi, come scrivono anche, e lo scrivo anche nelle slide, la quantificazione, cioè il trasformare delle entità in numeri, non è mai stata così importante nella società quanto oggi. Ed è così importante che noi la diamo per scontata. Io ho una piccola figlia, vivo in una città del nord Italia, non in Emilia Romagna, e per entrare al nido era necessario avere un certo punteggio in un indicatore. Bene, quindi era una misura oggettiva, o tu hai i punti o non li hai. Ora, come viene costruito però l'indicatore? L'indicatore conteneva anche una variabile che erano gli anni di residenza in quel comune, no? La tua, quindi, gli anni di residenza, no? Quindi, gli anni, siccome io è da poco che abito lì, sono... Abbiamo capito che è un comune leghista. Ora del PD, vediamo se cambia. No, è a Padova, va bene. Comunque, l'indice di patavinità. Però questo numero era asettico, questo numero era oggettivo. Però dipende come li costruisci i numeri, no? Perché dietro, come diceva Churchill, ci sono le menzogne, le grandi menzogne e le statistiche, ecco, quindi. Però quello che intendevo dire oggi è che noi possiamo produrre un sacco di numeri col nostro cellulare, che i numeri sono alla base delle diagnosi perché numero di sintomi, numeri di settimane, che noi su internet possiamo farci una diagnosi in 10 minuti rispondendo a delle domande pesate con degli altri numeri, e che è molto semplice quindi medicalizzarsi nell'ambito della salute mentale. Faccio un altro esempio, sempre una decina d'anni fa, un po' meno veramente, ero in America e sono andato in un ristorante e ho ordinato una zuppa e lì mi ha detto il cameriere: How much do you want it spicy from 0 to 5? Quanto la vuoi piccante da 0 a 5? Quanto la vuoi pepata da 0 a 5? Quanto la vuoi salata da 0 a 5? E ho dovuto fare un questionario proprio, mettere le crocette da 0 a 5. Quindi questo erano delle procedure di quantificazione, ancora i numeri, no? E vabbè, adesso nelle slide è un po' più semplice, però i numeri come raccontano cioè c'è un gruppo di persone che ha come hobby quello di quantificarsi, di capire quante volte quanti caffè bevono, quanti passi fanno, quante ore dormono, e quante ore dormi lo fai automaticamente, quanti passi fai lo fai automaticamente, però si sta costruendo una mentalità proprio, quantified self lo chiamano, basata proprio su questa idea della enumerabilità. C'è un editor di Wired, c'è uno che un paio di anni fa ha scritto: noi non abbiamo più bisogno di teorie perché abbiamo talmente tanti dati che le teorie non ci servono più. In realtà sarebbe un po' il contrario, però e ancora negli Stati Uniti c'è un numero che si chiama credit score, che è il tuo punteggio per l'accesso al credito. Questo numero decide della possibilità che i tuoi figli hanno di andare al college o no, della tua assicurazione sanitaria, è un numero ancora, no? E cioè, questa cosa dei numeri, all'università c'è l'impact factor, cioè questa cosa dei numeri, secondo me hanno ragione due studiosi che dicono: i numeri oggi sono talmente importanti che noi li diamo per scontati, non ci pensiamo neanche più. E quindi la quantificazione è uno, diciamo, dei due concetti che per me oggi è molto importante, che volevo menzionare. Un'altra bella frase è che noi oggi viviamo sempre più in una società strutturata come un mondo di punteggi piuttosto che di classi sociali. Cioè, non che le classi sociali non ci siano più, però i punteggi hanno una certa importanza se pensiamo al credit score. L'altro concetto che volevo, poi tra poco finisco, volevo menzionare, si chiama gamification, rendere le cose un game, un gioco, ed è questo, anche questa oggi è una tendenza. Ho anche fatto la foto stamattina, la mostro a chi mi sta vicino, sulla Repubblica c'era un articolo sull'algoritmo e si parla di gamification, cioè rendere le cose un gioco. Molte, diciamo, delle applicazioni che ci sono ci rendono facile fare delle cose noiose perché le facciamo in termini di gioco. Questi giochi entrano anche nelle aziende. L'articolo era un po' preoccupato perché la gamification è una cosa utile probabilmente, però è una cosa anche un po' così da rifletterci, perché in forma di gioco poi si danno punteggi, si vincono premi ed è una cosa molto connessa alla produttività, che però potrebbe anche ledere un po' i diritti del lavoratore in questo caso. Molte app sono fatte in termini di gioco, tu puoi vincere dei soldi smettendo di fumare, perché la gente mette 10 euro e poi se tu confessi di avere fumato un giorno perdi 20 centesimi e un altro li guadagna. è una tendenza nuova. All'Ipercop, la cosa è un po' triste per me, adesso non più credo, ma in qualche Ipercop davano dei grattevinci se tu facevi un certo livello di spesa, quindi rendevano un gioco il fare la spesa. Poi il grattevinci sappiamo che non è un, tra l'altro un gioco, è qualcosa di serio, perché ecco. C'è una app che si chiama Zombie Run, che ti fa correre più veloce, ti dice che ci sono gli zombie che ti corrono dietro, e poi c'è la gente che fa le corse davvero di zombie e si veste da zombie adesso e si corrono dietro, ed è una cosa interessante. C'è una app che ti permette di condividere i dati che tu produci con altre persone, con altre entità, con altre organizzazioni, con altri algoritmi. In America un'assicurazione sanitaria ti fa pagare meno se tu accetti di condividere questi dati. E dici, vabbè, è una option, è un'opzione. Io condivido questi dati, faccio vedere che sono una persona sana, perché e ottengo uno sconto nella polizza. Apro una parentesi, dopo il meccanismo secondo me è lo stesso. L'azienda Apple e l'azienda Facebook permettono alle loro impiegate di congelare i propri ovuli per fare quello che loro chiamano la career management, cioè il management della carriera, così tu puoi posticipare l'idea di far figli, eccetera. Se c'è un ufficio che ha tre donne che hanno deciso di congelare gli ovuli e una che ha deciso di non farlo, chi è che otterrà una promozione più probabilmente? Cioè, ci sarà un'inclinazione? Ecco, allora, tu volontariamente, parlo dell'assicurazione sanitaria, decidi di condividere i tuoi dati, diciamo, di corsa, di non so se fisiologici, credo di no, insomma, ma insomma, se tu fai sport, quelli dell'assicurazione lo vedono, no? Quindi è un'opzione individuale, nessuno ti obbliga. E anche quella di congelare gli ovuli, nessuno ti obbliga, però è possibile, e questo è il perverso meccanismo del digitale, e adesso io faccio un po' il critico del digitale, ma non, sottolineo gli aspetti critici, non, chiaramente non sono un luddista, però è possibile che quello che è un'opzione individuale possa diventare un giorno una costrizione sociale, che se lo fanno tutti o quasi tutti devo farlo anch'io. Se io non condivido i miei dati sono sospetto a un certo punto, se lo fanno in tanti, no? Ecco, quindi appunto la ultima, diciamo, cosa che volevo dire appunto è questa, che questo, diciamo, idea della salute come algoritmo, molto distante, no, da quello che raccontava e su cui lottava Achille Ardigò, in termini di giustizia sociale è abbastanza preoccupante, perché la depoliticizzazione della salute, cioè il togliere dalla salute gli aspetti politici, perché alla fine l'accesso alle cure, le politiche sociali, il rendere, e questa è l'essenza secondo me della politica per la salute, rendere delle scelte di salute facili anziché difficili. Ecco, la depoliticizzazione della salute e la sua riduzione a questione individuale, io seguo l'app, decido che parlo di America, vabbè, però comunque riduce l'importanza del welfare, riduce l'importanza della salute di comunità, riduce l'importanza della visione sociale della salute, e poi avevo anche una slide sulle determinanti di salute che incidono per una percentuale molto molto consistente sulla vita delle persone, l'ambiente, il capitale sociale, l'educazione, il reddito, eccetera. Comunque, se noi riduciamo la salute a una tecnica digitale, non facciamo altro che obnubilare le istanze di giustizia sociale. Quindi non voglio concludere, perché volevo leggere proprio le ultime righe che sono nel pezzo qua, perché concludevo, diciamo, nelle slide c'è la foto di Achille Ardigot e una frase di Achille Ardigot che non è sua, ecco, è una frase che ho imparato da lui, che lui ha preso da Virchow, che lui amava molto, ovvero: la medicina è una scienza sociale e la politica non è altro che medicina su larga scala. Quindi l'idea di fare politica, l'idea della politica è anche connessa alla crescita del benessere di una comunità, della salute di una comunità, perché la salute di una comunità cresce anche con la politica, non soltanto moltiplicando gli ospedali. No, la cosa su cui volevo concludere è una cosa personale, quindi è una cosa un po' forse egoistica, ma ve la leggo, sono 10 righe, quindi mi si permetta in chiusura un ricordo personale. Non ho conosciuto personalmente il professor Ardigot, ebbi però l'opportunità di seguire le sue lezioni nell'anno accademico 90-91 presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bologna, credo le ultime che tenne prima della sua pensione. Mi colpì il fatto che fu da lui, settantenne, che ascoltai per la prima volta l'espressione realtà virtuale. Nel corso delle sue lezioni e le discussioni, dopo la timidezza iniziale, si sviluppavano in modo intenso. Un giorno fece un intervento in cui comparava l'osservazione dell'osservazione di Luhmann alla fuga degli interpretanti di Peirce. Con mia grande sorpresa, al termine della lezione, il professor Ardigot mi chiese di approfondire la mia proposta di connessione. Così, la settimana successiva, mi ritrovai a fare una mini relazione, piuttosto balbettante, in cattedra accanto al professor Ardigot. Furono istanti che mi aiutarono a capire molto su ciò che mi sarebbe piaciuto fare del mio futuro. E ahimè, non ce ne avete avuto una prova. Ai voi. Bene, grazie. Mi sembra stata una bellissima lezione, come nostra abitudine. A questo punto c'è un giro di domande, di interventi, vi prego ovviamente, come sapete... Però quella cosa sui bagni pubblici, ecco, taglietela dai nastri, della pubblicità degli urologi... Teresa, censurare, sei responsabile, se poi... Sono molto perfettivi. Cioè, le ferrovie verranno non vorrei essere perseguitato dagli urologi adesso, più avanti magari mi capiterà statisticamente, ma... Allora sentiamo, io vi chiedo, dato che questo permette a più di voi di intervenire, perché so che la lezione è stimolato molto, grandi capacità di sintesi, perché dobbiamo poi dare la parola a Antonio che risponde a te. Prego. Precisamente mi ha colpito un due cose che ha detto: la medicina che non è pronta alla cronicità, vero, a mio avviso. A mio avviso però anche la società non è pronta alla cronicità, e quindi bisogna fare un mix tra queste due cose. Seconda cosa che mi ha colpito, dire tutto al paziente, il cancro soprattutto, ma non è solo il cancro, chiamare il paziente difficile a cui comunque relazionarsi, è senz'altro un problema di relazione etico, ma un grosso problema giuridico oggi, di cui bisogna tenere presente. E su, quindi credo che su questo punto bisogna molto ragionare per dare poi, non dire risposte, ma per avere comunque qualche opinione. Ah no, guardi, ha perfettamente ragione. Dunque, la seconda, certo, c'è la medicalizzazione della società, ma c'è anche la giuridificazione della medicina. Quindi sappiamo che le assicurazioni che debbono stipulare i medici sono costose, sappiamo c'è la pubblicità degli studi di avvocati, come, esattamente come in America, in tutti i mass media, che ti invita a fare causa. In America vanno un po' oltre, perché ti dicono: tu cammini e vedi $1,000,000. E dopo arrivi, vedi le scritte, hai fatto una chirurgia cardiaca, non ti preoccupare, vieni a parlare da noi. E il senso è, sicuramente qualcosa ti troviamo che è andato storto. Quindi sì, è vero, la questione giuridica è il convitato di pietra, in un certo senso, la norma giuridica, perché non per essere contro gli avvocati o contro il sistema del diritto, però una certa soleticazione viene offerta dal sistema giuridico per il litigio, ecco. Sì, è vero, sono stato molto veloce sulla medicina. Ho detto sì, la medicina non è pronta alla cronicità perché, appunto, e cito un medico degli anni 60, è più facile un preside di una facoltà americana di medicina, è più facile spostare un cimitero che modificare il curriculum di medicina. Quindi io da quest'anno insegno medicina, un corso in inglese, come sociologo, perché hanno fatto il corso di laurea in inglese, determinanti sociali di salute, però non è, diciamo, comune che i medici aprano a non medici, ecco. La società non è pronta per vari motivi, anche perché, diciamo, la vita lunga è una cosa abbastanza nuova, per fortuna che c'è, e però certo, si impara proprio costantemente, e c'è da dire anche che le cose cambiano molto velocemente, perché fino a 25 anni fa, si pensava 20 anni fa, che un certo tipo di anziano sarebbe andata in ospizio, poi sono avvenute, diciamo, le chiamo bananti, ma per intenderci, però questo aiuto ha configurato un nuovo modalità organizzativa anche di aiutare le persone anziane, ad esempio, per dirne una, e poi no, è vero, non siamo pronti e dovremo attrezzarci, sarà molto difficile attrezzarsi. Sì, prego. Sì, io volevo dire due cose rispetto a due concetti che ha espresso, uno sulla medicina narrativa, uno sulla questione dei numeri. C'è stato un periodo in cui la medicina narrativa andava molto di moda e poi è arrivata l'evidence-based medicine e quindi ha posto il numero al centro della discussione, diciamo così, dell'indice, del numero, come vengono costruiti gli indici poi. Spiegato bene, ci sono un sacco di bias, eccetera. Ma il problema qual è? Il problema è che tutte e due le cose possono stare assieme. Il problema a monte qual è? L'etica di chi usa questi strumenti. Non c'è dubbio. So che sto dicendo delle banalità. Non sono banali le cose. Però purtroppo è così. Cioè, che la medicina narrativa, come dire, porta il coinvolgimento del paziente e l'aumento della percezione della sua malattia e della capacità di narrare la sua malattia al medico, cosa che facilita la relazione sicuramente. Dall'altra parte però è chiaro che in un mondo come questo, dove le risorse sono sempre limitate, lo sono per definizione, lo sono a maggior ragione nel contesto sanitario, non si può prescindere che gli indici, i numeri e l'epidemiologia non abbia una funzione determinante. Il problema è mettere insieme le due cose in maniera etica, in maniera assolutamente corretta. Un'altra questione, secondo me, abbastanza interessante è la questione del limite. Molto è stato discusso su questo tema. Fin quando può spendersi la cura, ma non soltanto in termini rispetto al fine vita, ma anche rispetto all'uso delle risorse e alla concezione che la morte deve comunque essere accettata e che la morte è un dato fisiologico, non è un dato patologico, e quindi in qualche modo bisogna tenere conto che questo tipo di evoluzione deve essere in qualche modo resa accettabile. con tutto quello che ne consegue in uso appropriato delle risorse. Finisco su quella battuta dei bagni della stazione, perché ho contribuito a un dibattito con Luca De Fiore, che è il direttore del pensiero scientifico, su questo argomento, perché era chiaro che la cosa faceva un certo impatto, però se vogliamo vedere dal punto di vista del marketing fu di buona efficacia, e in ogni caso un messaggio che fa emergere per tempo la patologia, che consente di essere una patologia, ma non dico in genere, che consente che la patologia può essere governata e quindi presa per tempo, banalizzo anche questo il ragionamento, presa per tempo può generare risparmi di sistema medio lungo periodo. Quindi non è detto che questa roba sbagliata di per sé, ecco. No, certo. Io conosco bene il prodotto che mi ha utilizzato, si chiama Aroda, ho lavorato in quella società lì per 31 anni, quindi capisco il problema. Certo. Scusa Antonio, vi ricordo per una cosa, che quando con Ardigò impostavamo questo problema della medicina narrata, la persona umana come paziente è sempre un narratore, cioè non parla con un linguaggio emozionale, cioè chiunque sta male, chiunque ha una paura, e d'altronde se uno non sta male, non ha una paura, non ci va dal medico, no? Questi sono, e si muove sempre a livello emozionale. Dopo che da un linguaggio semantico lo trasformiamo, semantico emozionale, lo portiamo su un linguaggio sintattico numerico. Ma il linguaggio sintattico numerico non è umano, cioè la differenza, quando Luhmann parla di questa differenza di comunicazione, cioè dell'impossibilità, gli dice, di comunicare tra ruoli professionali, cioè sistema, e persone, ambiente, è proprio questo, che l'ambiente non recepisce un altro messaggio che non sia emozionale. Ma d'altronde anche quando vado a comprare un'automobile dico che bella, vorrei comprare un'automobile, quello ragiona diversamente, lui ha un ruolo, è un venditore, ragiona con i numeri. Allora questo è un punto, vabbè, però non voglio, andiamo altri. No, scusa, forse Antonio voleva rispondere. No, ma sono già tutto d'accordo. Poi soprattutto sono d'accordo sull'idea della falsa contrapposizione tra evidence-based medicine e narrative-based, cioè l'attenzione alle banche dati sulle passate diagnosi e sull'efficacia di certe cure può benissimo essere integrata con l'attenzione per il paziente. Ecco, non, secondo me non ho mai capito coloro che contrappongono i due aspetti, quindi sono d'accordo con lei. Sì, sì. Poi sulla cultura del limite, sì. Anche perché, scusi, ma mi volevo collegare a questo fatto, no? Che è proprio un collegamento tra la medicina narrativa e la raccolta del dato, cioè non c'è più, cioè si stacca, c'è proprio una frattura forte, perché io raccolgo il dato senza essere andato dal medico, riesco attraverso le app, che sono dei veri e propri dispositivi sanitari, alcune sono già ben definite, a raccogliere tutti i dati sanitari senza essere passato dal mio medico curante. Quindi il medico, cioè c'è questa rottura del rapporto fra medico e paziente. Questa è una cosa abbastanza, secondo me, inquietante, anche perché si perde proprio un rapporto di fiducia. Il numero, che è quello che diventa il dato, il numero, l'informazione, mi porta, perché utilizzo male, secondo a mio avviso, determinati strumenti, o li utilizzo forse in modo inappropriato, ecco, non diciamo male, mi porta proprio a spersonalizzare il rapporto fra medico e paziente. E questo, secondo me, è un rischio a cui dobbiamo stare molto attenti. Cioè, scusa, completo il ragionamento. Noi abbiamo due modi con cui comunichiamo con un medico, uno è genetico e l'altro è extragenetico. Cioè, è chiaro che il mio battito del cuore è un numero, la pressione del mio corpo è un numero, ma la pressione del mio corpo, il battito del cuore, cioè sono cose che sono genetiche. Cioè, tant'è vero che vengono, il medico ascolta la tua narrazione, che è quella che sai fare da 150.000 anni, perché prima parlavamo, abbiamo cominciato a parlare circa 150.000, anche dice 100.000, chi dice 200.000, su 7 milioni, 8 milioni di esistenze umane, no? Poi raccogli i dati dal tuo corpo, ti sonda il corpo col termometro, ti fa i raggi, la risonanza magnetica è un numero, cioè non sei tu che determini quello che dice la risonanza magnetica, se il tuo legamento come quello che ho fatto io al ginocchio c'è o non c'è. Quindi sono due modi per raccogliere. Il problema che stai dicendo tu è che questi due modi, genetico e extragenetico, perché l'abbiamo parlato da quando abbiamo cominciato a parlare, a raccontare favole e storie, perché ci siamo immaginati un mondo, e a quel punto, allora, questi due momenti si stanno drammaticamente combinando nella società digitale. E il gioco, io con quello che ha detto Antonio sono d'accordo, credo che però la grande attenzione di Artigò alla rete, quindi al digitale, quindi all'immateriale, sia dato dal fatto che era un'attenzione all'evoluzione sociale. Cioè ormai tutto si è separato, cioè l'atomo viene trattato da una parte, il bit viene trattato dall'altro, cioè sono due mondi che si sono separati, lo vediamo materialmente proprio, no? Cioè noi non facciamo più i telai di motorino, li fanno in Cina, noi facciamo il file del motorino, in America fanno il file di questo, però non si è mai visto trasformare in atomi il file in America, lo fanno in Cina. Allora, la sanità sta vivendo questo mondo, cioè la sanità non è diversa dai trasporti, dall'economia, perché anche i servizi alla persona stanno staccando il materiale, atomi, ma atomi è anche energia, fare un massaggio è atomi, no? Dall'immateriale, che è il file, l'informazione che genera il materiale. È chiaro questo concetto? Questo tavolo non lo fanno più qui. Noi facciamo il file del Tao, il Tao viene realizzato. Allora, a questo punto, questi due mondi si sono separati. Si è iniziato dalla produzione di oggetti, tant'è vero che abbiamo la stampante 3D che proprio al Rizzoli fanno la protesi, cioè al computer realizzano l'immateriale, poi mettono il file nella stampante che ci pensa a trasformarli in atomi. Trasforma i bit in atomi. Tutta la sanità verrà, funzionerà così, cioè verrà separato il bit dall'atomo. E l'atomo cosa sarà? La pillola, il massaggio, il consiglio è atomo. Einstein dice che energia è uguale a materia, quindi io ti do un consiglio, spreco energia e materia. Allora, da questo punto di vista, questa drammatica separazione, che è l'evoluzione di tutta l'economia, compresa la sanità di cui l'economia fa parte, che la sanità non è fuori dal mondo, è un settore di produzione, produce cura, produce prevenzione, no? È la gestione di questa drammatica separazione che ha creato la crisi. Ma cosa pensate che sia fatta la crisi degli ultimi 10 anni? È data dalla grande separazione del digitale dal materiale, cioè noi siamo rimasti in mezzo alla strada. In Cina lavoravano l'atomo, in America lavoravano i bit e noi eravamo in mezzo, drammaticamente i nostri giovani non sono andati in Cina a lavorare l'atomo, sono andati in America, in Inghilterra a lavorare i bit, molto nel distretto di Berlino a lavorare i bit. Cioè a volte delle cose così complicate, ti stanno alla televisione un'ora, si possono spiegare in due battute. Allora, a questo punto cosa succede? Lo chiedo. Ecco, mi interesserebbe una riflessione anche di Antonio. Cosa succede se, come in tutti i settori, mobilità, trasporti, servizi, eccetera, va avanti la separazione, questa drammatica separazione? Dobbiamo gestire questa separazione. Il fascicolo sanitario elettronico, ragazzi, è questo. Cioè, voi avete un corpo virtuale dematerializzato che qualcuno vi deve materializzare. Badate bene, non necessariamente con una pillola. Può essere un consiglio, cioè l'energia del medico che ti trasmette un consiglio che ti materializza però parte, anziché da 100, da 1 miliardo di bit. Prima lavorava su 1000 bit, poi ha lavorato su 1 milione di bit, adesso lavora su 1 miliardo di bit, domani lavorerà su 10 alla 20esima potenza di bit. Questo è. Cosa dice Antonio di questo? Così posso aggiungere una cosa? Sentiamo. Ma chi poi avrà la capacità di fare la sintesi di tutta questa roba? Il software. Io gli algoritmi che dovremmo usare, perché quando abbiamo tutti gli esami del sangue, tutti i nostri dati genetici e il nostro DNA dentro al fascicolo sanitario elettronico, non è che il medico lo apre e dice beh però non è che stai meglio, ha bisogno di tecnologia. Ma il problema è che l'interpretazione di quella tecnologia, cioè quando lui avrà la sintesi, cioè la tecnologia gli serve come strumento, a questo punto chi decide la materializzazione non è il software, è il medico. È il medico. Cioè quel passaggio che, secondo me, questo è il pensiero di Erdogan, lo fa capire, è quel passaggio che lui addirittura carica di empatia, che a un certo punto, ed è un momento quasi di follia, perché devi prendere una decisione, devi prendere la drammatica decisione. Foucault dice che la decisione è un momento di follia, perché passi dal passato, hai raccolto tutti i dati sul tuo passato, a un presente che dura un istante, a un futuro che non c'è. Quindi non è facile questa decisione, no? Però a un certo punto dice, va bene, senti, tu è meglio che non prendi niente, stai tranquillo, vedrai che ti guarisci. Chi è che prende queste decisioni? Una macchina? No, certo, la macchina gli dà la sintesi dei dati, ma è lui che prende la decisione. Ma sulla base di informazioni astratte? No, però sono scientifiche. No, di informazioni astratte. Sono due mondi diversi, uno è sintetico, no, l'altro è semantico. Sulla base di informazioni astratte, nel senso che non conosce il paziente. Ma non vorrei andare, non vorrei stravolgere un pensiero, mi sono inserito. Volevi dire qualcosa, Antonio? Ma su questo, diciamo, sì, c'è il consiglio che può essere tra l'altro un messaggio non materiale, diciamo, può essere a sua volta uno scambio di mail o avvenire in un ambiente digitale, dopodiché spetterà al paziente, diciamo, agire così come suggerito. No, è molto bello il sistema, però dobbiamo ricordarci che c'è un contesto sociale che recepisce queste innovazioni, cioè qualcuno che arriverà prima, qualcuno non arriverà, e quindi diciamo forse bisognerà pensare a come trasformare questo bel quadro digitale in accesso così, l'utilizzo consapevole, certo. È fondamentale, perché se no non riesco. Però no, tutto in un concetto. Allora, aveva chiesto Giulia, mi pare, se poi Anna, prego Giulia. Era la questione, era la narrativa e l'utilizzo dei dati, almeno per quello, cioè si tende a separare queste due cose. Abbiamo detto che la dicotomia non ha molto senso, anzi spesso l'utilizzo dei dati io vedo che in parte fa parte di una narrativa, perché il come, cioè anche il come presenti il dato può sostenere o meno una certa narrativa, e quindi anche lì bisogna fare anche attenzione a queste strumentalizzazioni, che sono anche molto fini, sono anche più difficili da riconoscere. Questo almeno si vede anche su tantissime questioni, non solo a livello sanitario, quindi era un attimo anche per legare la cosa. Anna? Sì, la riflessione che facevo, che mi va di portare, è proprio più legata al concetto di tempo di cura come diritto di cui hai bisogno. Adesso però mi spiego, sono molto d'accordo su quello che ha espresso, non mi ricordo, Maurizio, sul fatto che tutta una serie di elementi sono elementi e sono neutri, e oggi anche senza il digitale, scusate, vengo da questo, è così, cioè il medico tutti i dati genetici, come li chiami tu, li ha bisogno tutti prima, non li ricava più al momento in cui vede il paziente. Devi però dare tempo di cura al punto, a questa ripresa, a questo momento della presa di decisione, e questo momento prima, dove il dato genetico lo puoi ricavare da qualsiasi cosa, dall'indossabile, da questo, l'importante è che il medico ce l'abbia prima, ma che abbia poi il tempo di trasformarlo e di trasmetterlo. Questo è il vero tempo di cura e quello che può aiutare la digitalizzazione. Oggi in medicina Un medico non prende una decisione, un gruppo di medici prendono una decisione. Tanti dati sono necessari, il concetto di multidisciplinarietà è questo, devi avere tutto prima e quando hai discusso, prima ancora di vedere il paziente con i tuoi colleghi, vuol dire che hai ragionato prima su tutti i dati genetici. Quello che devi essere capace di fare è concordo su ciò che non è la formazione del medico, ma che è la formazione degli infermieri, scusate, ma, no, e i medici devono veramente cambiare il loro curriculum. È la capacità poi, ripeto, oltre al fatto di capire la parte genetica, di tradurla in un atto, in una prescrizione, in un consiglio, in una diagnosi, perché prima di tutto si traduce in una diagnosi, è la capacità di ascoltare quello che ti dice il paziente oltre a quei dati, quindi quello è il diritto, il concetto del narrativo, ma di saperlo poi inserire in quel contesto di cura e di saper poi comunicare con il paziente per poter fare il trattamento. Su questo però certamente il digitale, la dematerializzazione eccetera è utilissima, perché tutto ciò che può essere acquisito prima e direttamente è estremamente fondamentale. Non deve essere però, non deve rientrare nella logica che stiamo vedendo negli ospedali, che se io risparmio tempo sì. perché acquisisco i dati prima, io ti tolgo il tempo della cura. Lumia, vi ricordate, no? Cioè, tu non c'eri Anna, ma questo concetto è stato ampiamente condiviso e sviluppato nel laboratorio medico-paziente con il dottor Lumia, che ha parlato proprio di tempo di cura, cioè che va riconosciuto. Scusate, mi sono ripetuta. Questo mi sembrava molto onnicomprensivo, quindi non ho nulla da aggiungere. Semplicemente si chiama poi clinica, quello che hai detto è fondamentale, tutto va bene, ma se non c'è il momento clinico, che è un contenitore che ha tutta una serie di aspetti e questo bisogna ritornarsi e credo che anche nella facoltà di medicina di oggi questo aspetto venga sottostimato e invece bisogna riprenderlo come concetto base, accanto a tutto il resto. Io sono vecchio, quindi appartengo a un'altra generazione, con questo mancava. Quindi questo è un enorme vantaggio, ma se ti prendiamo quello, perdiamo quello di prima, signori miei, rischiamo veramente di rimanere, come dicevo lei, in mezzo tra l'America e la Cina. Certo. Altri? Voglio dire un'altra cosa. Prego. Forse però bisognerebbe anche rivedere il curriculum degli studenti di medicina. Qualcosa è stato fatto ultimamente, però il medico, visto che alle spalle ha tutte delle possibilità di diagnosi, di dati che comportano poi se il malato ha questo o quella malattia, dopo dovrebbe essere anche un pochettino abituato più a saperli leggere, perché molti dei medici ancora adesso stanno scomparendo, quelli che non sanno di digitale, però anche essere forse più sapere parlare col paziente e avere anche oltre dei termini anche più comprensibili e anche avere un rapporto più umano col paziente, cioè qui per me dovrebbero fare forse più esami di psicologia, di come prepararlo, perché quando tu ti trovi il medico e devi dare una diagnosi nefasta a un paziente, forse se hanno dei familiari da poter ascoltare e poi essere intermediari va bene, ma se lo devi dire poi così. Certo, l'avete ricordato il laboratorio che abbiamo fatto, che è venuto fuori esattamente il tema. Sì. Francesca? Io non so fare delle considerazioni personali. Cioè, quando è andato a Rizzoli, mi ricordo, venne a casa il primo giorno, sai che fare, e prima cosa chiamo tutte le caposale, poi le infermiere, poi il resto, voleva proprio, ecco, e altra cosa, quando era ricoverato, a noi ci veniva male, mi raccomando, perché era un controllo da malato. Era un incubo, penso, per infermieri, gli orari, come si sente, che cos'è che non la soddisfa. Era malato, pensa alla tua malattia, no? Dicevamo, professore. Quindi era proprio uno che partorivamo tutti, noi siamo in tanti, ogni parto si doveva dire come era andato, cosa c'è. Poi mi ricordo anche in famiglia, a proposito di quello che è successo a lei, se qualcuno di noi gli veniva un'idea o una cosa, ecco, bravo, allora tu per domani ci prepari, perché il primo di noi ti diceva, avrei, gli diciamo zitto per favore, ti conviene stare zitto. Ma mi ricordo che era veramente una, di tutto, ma se prendeva l'autobus, era un continuo osservazione di se era il conducente, il bigliettaio, il passeggero. No. Era un sociologo. A teatro uguale. No. Io mi rifiutavo. Bene. È un momento di grossa crisi per i medici. Volevo fare un'ultima riflessione. Da Stiglitz in poi, parlo di Nobel, di Nobel dell'economia, da Stiglitz in poi, compreso quello di quest'anno, tutti i primi Nobel dell'economia sono stati dati a degli studiosi che hanno lavorato sul, sul tema della decisione, sul tema della decisione in economia. Lo stesso modello, Daniel Kahneman, Gigi Renzer, eccetera, hanno traslato lo stesso modello applicato nella decisione in economia nella decisione in medicina, perché poi i meccanismi psicologici, le trappole cognitive sono esattamente le stesse e sono quelle che deve affrontare il medico tutti i giorni quando ha la sintesi dei dati, ma quei dati lì vanno interpretati, e se non ha la competenza per evitare le trappole cognitive il rischio è elevatissimo. Certo. Stiglitz lo laureiamo, prende la laurea honoris causa fra 3 giorni a Bologna, viene qua. Chi, scusi? Stiglitz avrà la laurea honoris causa qua a Bologna. Ce l'abbiamo qua. Il 3 novembre. Sì, bene, questo può essere che si può andare a ascoltare direttamente in Santa Lucia. Volevo solo aggiungere, Antonio ha detto bene, cioè il meccanismo che abbiamo descritto, il fascicolo, la dematerializzazione, la materializzazione della cura, vanno calati nel contesto sociale. È chiaro, sì, sì, che nella periferia, in caso dell'avvocato, la situazione cambia radicalmente. E quindi questo è un problema che però io penso che Ardigò ci farebbe un'osservazione a questo punto e direbbe però cominciamo a guardare quante famiglie utilizzano internet in questo momento. È vero o no che il 70% delle famiglie dell'Emilia Romagna utilizza internet? Allora, se utilizzano internet per organizzare il viaggio, per comprare quella cosa, per l'elettrodomestico, allora vuol dire che effettivamente anche questo, cioè il soggetto sociale che entra in campo non è più una persona, cioè questa digital divide, questa situazione che di esclusione sociale può attraverso la rete, il social network, il social street, tutte le cose che poi tra l'altro ci appassionava tantissimo, recuperare una dimensione di collettività. Te lo devo dire perché questo passaggio, questo è proprio il passaggio nel quale noi lo stiamo vedendo proprio sul fascicolo sanitario elettronico. Cioè dire, poi ne parleremo quando ci vediamo per quella testimonianza con quelli che hanno a mano in questo momento il fascicolo sanitario elettronico, sta accadendo qualcosa, cioè da elite che lo utilizzavano cominciano a essere invece strati sociali diversi. E questo problema della cronicità, ricordatevi quando parliamo di cronicità, parliamo di un 20% della popolazione che assorbe l'80% della spesa sanitaria. Questo è il dato, ce l'ha dato la Lombardia, ma mi pare anche per l'Emilia. Quindi quando passeremo veramente, Anna lo sa perché insieme stiamo curando un progetto in Lombardia, la presa in carico del paziente cronico esige una sanità dematerializzata. Se no non riusciamo a fare un'operazione di questo genere per avere bisogno. Antonio, dicevo qualcosa in chiusura? Ah no, devo soltanto ringraziarvi perché per me è stato molto bello riconnettermi con Ardigò dopo tanti anni in modo anche pubblico, perché in fondo è da lì che tutto è cominciato per me, quindi sono molto, molto contento. Poi forse la mia conclusione sul digitale è stata un po' tecno-pessimista, ho fatto vedere dei lati un po' dark, ma in realtà no, io sono abbastanza entusiasta delle possibilità, ecco, quindi grazie per avermi invitato. Grazie tanto, bravo. Di questo credo che, lo dico a Teresa, credo che abbiamo in magazzino un certo numero di cose di questo. Quindi nella prossima lezione se ne troviamo una ventina, una trentina, di quelli che troviamo ve li portiamo, va bene? Grazie. Volentieri, più strutturato rispetto a cose che riguardano Goiano, che stiamo facendo adesso. Buonasera, va bene. Chiarissimo, ma e soprattutto i concerti quelli fondamentali. Bene. Io sono la straniera, io sono la straniera, io sono dell'Emilia Romagna, ma caso Mauro mi chiamava, perché sono qui, stiamo quindi forse la più stanca sono io. Però veramente uscita alle 7:05. Grazie per l'attenzione.